7. E chi è quest'uomo pallido che ora vedo apparire come una visione sinistra in tutti i luoghi in cui ti trovi? Cosa vuole da te? Dove ti ha conosciuta? Dove ti ha vista? Perché il primo giorno in cui è apparso qui ha attraversato la folla per guardarti e tu hai subito scambiato con lui un sorriso triste. Quell'uomo mi preoccupa e mi spaventa. Quando si avvicina a me sento freddo. Se i suoi vestiti toccano i miei, sento una scossa elettrica. È un grande poeta che non si abbandona al mondo, ma che è al di sopra di Byron. La sua ampia fronte rivela sì il genio, ma non vi trovo quella purezza celestiale, quel raggio di entusiasmo che caratterizza il poeta. Quell'uomo è spento e desolato come il Giaour, come Lara, come te, Lelia, quando soffri. Non mi piace vederlo costantemente al tuo fianco, che assorbe la tua attenzione, monopolizzando, per così dire, tutto ciò che riservi di benevolenza per la società e di interesse per le cose umane. So di non avere il diritto di essere geloso, quindi quello che soffro a volte non te lo dico, ma sono addolorato. Mi è permesso esserlo, nel vederti circondata da questo influsso tetro. Sei già così triste, così scoraggiata, tu che dovresti essere intrattenuta solo da speranze e dolci promesse. Ma ecco che sei sotto l'influenza di un'esistenza avvizzita e desolata. Perché quest'uomo inaridito dal soffio delle passioni, nessuna freschezza giovanile colora i suoi tratti pietrificati, la sua bocca non sa più sorridere, il suo incarnato non si anima mai, parla, cammina, agisce per abitudine, per memoria. Ma il principio della vita si è spento da tempo nel suo petto, ne sono certo, signora, ho osservato molto quest'uomo. Ho penetrato il mistero con cui si avvolge. Se vi dice che vi ama, sta mentendo, non può più amare. Ma può colui che non sente nulla ispirare qualcosa? È una domanda terribile che mi pongo da molto tempo, da quando vivo, da quando ti amo. Non riesco a credere che tanto amore e tanta poesia emanino da te senza che la tua anima ne contenga il fulcro. Quest'uomo sprizza freddo da ogni poro, è così ripugnante per tutto ciò che gli si avvicina, che il suo esempio mi consola e mi incoraggia. Se tu avessi il cuore morto come lui, non ti... Io non t'amerei. Io ti odierei, come odio lui. Eppure, oh, in quale inestricabile labirinto si dibatte la mia ragione. Non condividi il mio orrore per lui, al contrario, sembri attratta da lui, da una simpatia invincibile. Ci sono momenti in cui, vedendolo passare con te in mezzo alle nostre feste, voi due, così pallidi, così seri, così distratti in mezzo alle danze, alle donne che ridono e ai fiori che volano, mi sembra che soli tra tutti noi possiate capirvi. Mi sembra che si stabilisca una dolorosa somiglianza tra le vostre sensazioni e persino tra i tratti del vostro viso. È il sigillo della sfortuna che conferisce alle vostre fronti scure questa somiglianza familiare. O questo sconosciuto, Lelia, è davvero tuo fratello. Tutto nella vostra esistenza è così misterioso che sono pronto a fare qualsiasi ipotesi. Sì? Ci sono giorni in cui penso che tu sia sua sorella. Bene, voglio dirlo per farti capire che la mia gelosia non è né gretta né infantile. Non soffro di meno con quest'idea. Non sono meno ferito dalla fiducia che gli dimostri e dall'intimità che regna tra te e lui. Tu che sei così fredda, così sospettosa, così riservata a volte e che non lo sei mai per lui. Se è tuo fratello, Lelia, che diritto ha su di te più di me? Pensi che io ti ami meno puramente di lui? Pensi che potrei amarti con più tenerezza, sollecitudine e rispetto se tu fossi mia sorella? O che tu lo sia, non avresti sfiducia in me, non ignoreresti in ogni momento il sentimento casto e profondo che mi ispiri? Non si ama forse appassionatamente la propria sorella quando si ha un'anima appassionata? E una sorella come te, Lelia? I legami di sangue che hanno tanto peso sulle nature volgari non sono nulla in confronto a quelli forgiati dal cielo nel tesoro delle sue misteriose simpatie. No, se è tuo fratello, non ti ama più di me e non gli devi più fiducia di quanta ne devi a me. Com'è felice il maledetto, se ti piace raccontargli le tue sofferenze e se hai il potere di addolcirle. Ahimè, non mi dai nemmeno il diritto di condividerli. Sono quindi molto piccolo, il mio amore ha poco valore. Sono quindi un bambino molto debole e inutile, visto che hai paura di affidarmi un po' del tuo fardello. Oh, sono infelice, Lelia, perché lo sei e non hai mai versato una lacrima nel mio petto. Ci sono giorni in cui cerchi di essere allegra con me, come se avessi paura di essere un peso per me, abbandonandoti al tuo umore. Ah, questa è una delicatezza molto offensiva, Lelia, e che mi ha spesso ferito. 8. Ho mostrato la tua lettera all'uomo qui chiamato Tranmore, di cui conosco solo il vero nome. Si è interessato alla tua sofferenza ed è un uomo con un cuore così compassionevole, il cuore che pensi sia morto, che mi ha permesso di rivelarti il suo segreto. Vedrai che non sarai trattato come un bambino, perché questo segreto è il più grande che un uomo possa confidare a un altro uomo. E prima di tutto, conoscere il motivo del mio interesse per Tranmore è che quest'uomo è il più sfortunato che abbia mai conosciuto. È che per lui non è rimasta una goccia di feccia in fondo al calice che non sia stata consumata. È che ha un'immensa, incontestabile superiorità su di te, quella della sfortuna. Sai cos'è la sfortuna, giovanotto? Sei appena entrato nella vita, stai subendo le tue prime agitazioni, le tue passioni aumentano, accelerano i movimenti del sangue, disturbano la pace del sonno, risvegliano in te nuove sensazioni, ansie convulse, tormenti nervosi e tu la chiami sofferenza. Pensi di aver ricevuto il grande, il terribile, il solenne battesimo della sventura? Si soffre, è vero, ma che nobile e preziosa sofferenza è amare. Quanta poesia non ne è la fonte. Quanto è calda, quanto è produttiva la sofferenza che si può dire e di cui ci si può impietosire. Ma quello che si deve nascondere, pena l'infamia e la maledizione, quello che si deve nascondere nelle viscere come un tesoro amaro, quello che non brucia ma congela, che non ha lacrime, né preghiere né fantasticherie, quello che veglia sempre freddo, pallido, paralitico nel profondo del cuore. Quello che Tranmore ha esaurito è quello di cui potrà vantarsi davanti a Dio nel giorno della giustizia, perché davanti agli uomini bisogna nascondersi. Ascolta la storia di Tranmore. La sua storia è scandita in modo più ampio e ricco delle vostre. Per lui la vita comune era troppo piccola. Per anime come la sua, l'universo non offriva abbastanza cibo. Come te, però, era giovane, candido, innamorato, come te, aveva 20 anni, solo che, vivendo più velocemente, lui ha avuto la sua sofferenza a 16 anni. L'amore si esaurì, fu divorato da una passione molto più energica, molto più feconda, di drammi terribili, molto più intensa, molto più inebriante, molto più eroica negli atti che concorrevano al suo scopo. Il gioco, perché bisogna dire, ahimè, se la meta è vile in apparenza, l'ardore è potente, l'audacia è sublime, i sacrifici sono ciechi e senza limiti. Le donne non ispirano mai tali sacrifici. L'oro è un potere di gran lunga superiore a quello delle donne, nella forza, nel coraggio, nella devozione, nella perseveranza, nel prezzo del giocatore. L'amante non è che un bambino debole i cui sforzi sono degni di pietà. Quanti uomini hai visto sacrificare alle loro amanti quel bene inestimabile, quella necessità impagabile, quella condizione dell'esistenza senza la quale non c'è esistenza sopportabile? L'onore. Difficilmente conosco qualcuno la cui devozione va oltre il sacrificio della propria vita. Ogni giorno il giocatore sacrifica il suo onore e sopporta la vita. Il giocatore d'azzardo è duro, è stoico, trionfa con freddezza, soccombe con freddezza. Passa in poche ore dagli ultimi ranghi della società ai primi, in poche ore scende al punto da cui è partito e questo senza cambiare atteggiamento o volto. In poche ore, senza lasciare il luogo in cui il suo demone lo incatena, attraversa tutte le vicissitudini della vita, passa attraverso tutte le possibilità di fortuna che rappresentano le diverse condizioni sociali. A turno, re e mendicante. Sale l'immensa scala con un solo balzo, sempre calmo, sempre padrone di sé, sempre sostenuto dalla sua robusta ambizione, sempre eccitato dalla sete amara che lo divora. Quale sarà il prossimo ruolo? Principe o schiavo? Come uscirà da questo circolo vizioso, nudo o piegato sotto il peso dell'oro. Che importanza ha? Tornerà domani per rinnovare la sua fortuna, perderla o triplicarla. Ciò che è impossibile per lui è il riposo. È come l'uccello delle tempeste che non può vivere senza le onde agitate e i venti furiosi. È accusato di amare l'oro. Lo ama così poco che lo butta via con le sue stesse mani. Questi doni infernali non possono giovargli né soddisfarlo. Ricco a malapena, desidera essere rovinato per poter riassaporare quell'emozione nervosa e terribile senza la quale la vita è insipida. Che cos'è l'oro per lui? Meno di niente, un granello di sabbia rispetto al vostro. Ma l'oro è per lui un emblema dei beni e dei mali che viene a cercare e a sfidare. L'oro è il suo giocattolo, il suo nemico, il suo dio, il suo sogno, il suo demone, la sua amante, la sua poesia. È l'ombra che insegue, attacca, abbraccia e poi lascia andare per il piacere di ricominciare la lotta e di andare ancora una volta faccia a faccia con il destino. Forza! È bellissimo, è assurdo, deve essere condannato perché l'energia impiegata in questo modo non è di alcun beneficio per la società. Perché l'uomo che dirige le sue forze verso un simile obiettivo priva i suoi simili di tutto il bene che avrebbe potuto fare loro con meno egoismo. Ma nel condannarlo non disprezzatelo. Voi altre piccole menti che non siete capaci né di bene né di male. Misurate solo con terrore il colosso della volontà che si dibatte così in un mare in tempesta per il solo piacere di esercitare il suo vigore e gettarlo al di là dei suoi limiti. Il suo egoismo lo spinge in mezzo alla fatica e al pericolo, sì, ma il vostro vi incatena a professioni pazienti e laboriose. Quanti uomini si contano nel mondo che lavorano per il loro paese senza pensare a se stessi? Ma si isola francamente, si mette da parte, si accumula, si dispone del proprio futuro, del proprio presente, del proprio riposo, del proprio onore, si condanna, ci si condanna alla sofferenza, alla fatica. Voi deplorate il suo errore, ma non vi confrontate con lui nel segreto del vostro orgoglio per glorificarvi a sue spese. Che il suo esempio fatale serva a consolarti per la tua innocua nullità. Per oggi mi fermo qui. La tua è un'età di intolleranza e ti girerebbe troppo la testa se ti raccontassi in un giorno tutto il segreto di Tredmore. Voglio lasciare che questa parte della mia storia lasci il segno. Domani ti racconterò il resto. 9. Hai ragione a risparmiarmi. Ciò che apprendo mi sorprende, mi sconvolge. Ma tu presumi che io sia interessato al resto se credi che io sia così commosso dai segreti di Tredmore. È il suo giudizio su tutto, è il tuo giudizio su tutto questo che mi preoccupa. Sei dunque al di sopra della società per trattare con tanta leggerezza i crimini commessi contro di essa? Forse questa domanda è offensiva, forse la società è così spregevole che io stesso sono migliore di essa, ma perdona le perplessità di un bambino che non sa ancora nulla della vita reale. Tutto ciò che mi dici mi fa l'effetto di un sole troppo forte su occhi abituati all'oscurità. Eppure sento che mi risparmi molta luce per amicizia o per compassione. Oh, cosa devo imparare? Quali illusioni hanno cullato la mia giovinezza? Il giocatore d'azzardo non è spregevole, dici? O se lo è agli occhi degli esseri superiori, non può esserlo ai miei? Non ho il diritto di giudicarlo e di dire io sono più grande di quest'uomo che danneggia se stesso e non giova a nessuno. Ebbene, così sia. Io sono giovane, non so cosa ne sarà di me. Non sono passato attraverso le prove della vita, ma anche Tranmore aveva 20 anni e aveva nobili passioni, come hai detto tu, Lelia, che sei più grande per anima e genio di qualsiasi altro essere sulla terra. Puoi condannare Tranmore e odiarlo, e non vuoi farlo. La tua indulgente compassione o la tua imprudente ammirazione, non saprei quale delle due, lo segue nel mezzo dei suoi trionfi colpevoli. Applaudi ai suoi successi e rispetta le sue battute d'arresto. Ma se quest'uomo è grande, se ha in sé un tale flusso di energia, perché non la usa per reprimere queste cattive inclinazioni? Perché abusa della sua forza? Anche i pirati e i banditi sono grandi? Chi si distingue per crimini audaci o vizi eccezionali è dunque un uomo davanti al quale la folla commossa deve aprirsi con rispetto? Bisogna essere un eroe o un mostro per piacerti? Forse. Quando penso alla vita piena e agitata che devi avere avuto, quando vedo quante illusioni sono morte per te, quanta stanchezza ed esaurimento c'è nelle tue idee, nella tua testa, mi dico che un destino oscuro e noioso come il mio può essere solo un peso inutile per te e che ci vogliono impressioni insolite e violente per risvegliare le simpatie della tua anima stanca. Bene, allora, dimmi una parola che mi incoraggi, Lelia. Dimmi cosa vuoi che sia e io lo sarò. Pensi che l'amore per una donna non possa dare la stessa energia dell'amore per loro? È la mia disgrazia, è la mia vergogna che mi chiedi? Bene, allora, bene, bene, bene, bene, bene. Ma è un insulto per te offrirti tali sacrifici. Mi disprezzeresti dopo, dici? Eppure non disprezzi Trenmore e lui ha sacrificato il suo onore. Dici a cosa? Alla passione del gioco? Continua. Continua con questa storia, mi interessa terribilmente perché è una rivelazione della tua anima, dopo tutto, di quell'anima profonda, commovente, commossa, inafferrabile, che io cerco sempre e non riesco mai a penetrare. 10. Senza dubbio sei molto migliore di noi, giovanotto. Lascia che il tuo orgoglio sia rassicurato, ma tra 10 anni o addirittura tra 5 sarai buono come Trenmore, come Lelia? Questa è una domanda. Così come sei, io ti amo, o giovane poeta. Non lasciare che questa parola ti spaventi o ti intossichi. Non pretendo di darti qui la soluzione al problema che stai aspettando. Ti amo per il tuo candore, per la tua ignoranza di tutte le cose che io so, per quella grande giovinezza morale di cui sei così impaziente di liberarti, imprudente come sei. Ti amo con un affetto diverso da quello di Trenmore. Nonostante le sue ampie passioni, nonostante la sua mente superiore, trovo meno fascino nella conversazione di quell'uomo che nella tua, e ti spiegherò tra poco perché mi sto sacrificando così tanto da lasciarti per lui. Prima di continuare la mia storia, però, risponderò a una delle tue domande. Tu dici perché quest'uomo così volitivo non ha usato la sua forza per reprimersi? Perché? Buon Stenio, ma come si fa a capire la natura dell'uomo? Cosa ti aspetti dal suo potere? Cosa ti aspetti da te stesso? Ahimè. Stenio, sei molto imprudente a venire a gettarti nel nostro vortice. Vedi cosa mi costringi a dirti. Gli uomini che reprimono le loro passioni nell'interesse dei loro simili, quelli, vedi, sono così rari che non ne ho ancora incontrato uno. Ho visto eroi dell'ambizione, dell'amore, dell'egoismo, della vanità soprattutto. Di filantropia? Ma molti se ne vantavano con me, ma mentivano. Gli ipocriti. Il mio sguardo triste si è immerso nel profondo delle loro anime e ha trovato solo vanità. La vanità è, dopo l'amore, la più bella passione dell'uomo. E sappi, povero bambino, che è ancora molto rara. L'avidità, il rozzo orgoglio delle distinzioni sociali, la dissolutezza, tutte le vili inclinazioni, persino la pigrizia, che per alcuni è una passione sterile ma ostinata, sono le ambizioni che muovono la maggior parte degli uomini. La vanità, almeno, è qualcosa di grande nei suoi effetti. Ci costringe ad essere buoni per il desiderio che abbiamo di apparire tali, ci spinge all'eroismo, tanto è dolce vedersi portare in trionfo, tanto è potente e abile la seduzione della popolarità. E la vanità è qualcosa che non si ammette mai. Le altre passioni non possono darsi per vinte. La vanità può nascondersi dietro un'altra parola che gli ingannatori accettano. Filantropia. Mio Dio, che falsità infantile. Dov'è l'uomo che preferisce la felicità degli altri uomini alla propria gloria? Il cristianesimo stesso, che ha prodotto la cosa più eroica della terra, il cristianesimo, qual è la sua base? La speranza della ricompensa, un trono innalzato nei cieli, e coloro che hanno realizzato questo grande codice, il più bello, il più vasto, il più poetico monumento dello spirito umano. Conoscevano così bene il cuore dell'uomo, le sue vanità e la sua piccolezza, che hanno creato il loro sistema di promesse divine in conseguenza. Leggete gli scritti degli apostoli e vedrete che in cielo ci saranno distinzioni diverse gerarchie di beati, luoghi scelti, una milizia regolarmente organizzata con i suoi capi e i suoi gradi. Si tratta di un commento intelligente alle parole di Cristo. I primi saranno ultimi e gli ultimi saranno i primi. In verità vi dico che chi è il più piccolo sulla terra sarà il più grande nel regno dei cieli. Ora, perché Trenmore non ha usato la sua forza morale per domarsi nell'interesse dei suoi simili? È perché ha frainteso la vita, è perché il suo egoismo lo ha traviato, è perché invece di salire su un teatro sontuoso è salito su uno ventoso, è perché invece di usare se stesso per declamare moralità speciose sul palcoscenico del mondo e per interpretare ruoli eroici, si è divertito per dare carriera al vigore dei suoi muscoli, facendo trucchi di forza e rischiando su un filo d'arco. Eppure, questo confronto è inutile. L'acrobata ha la sua vanità come il tragico, come l'oratore filantropo. Il giocatore non ha nulla. Non è ammirato, né applaudito, né invidiato. I suoi trionfi sono così brevi e così casuali che non vale la pena parlarne. Al contrario, la società lo condanna, il popolo lo disprezza, soprattutto nei giorni in cui ha perso. Tutta la sua ciarlataneria consiste nel fare bella mostra di sé, nel presentarsi dignitosamente davanti a un gruppo di interessati che non lo guardano nemmeno, tanto sono assorbiti da un altro tipo di contenimento dello spirito. Se nelle sue rapide ore di fortuna trova un po' di piacere nel soddisfare le volgari vanità del lusso, è un tributo molto breve che paga alle debolezze umane. Presto sacrificherà senza pietà questi puerili godimenti di un momento all'attività divorante della sua anima, a quella febbre infernale che non gli permette di vivere un giorno intero della vita degli altri uomini. Vanità per lui? Ah, oh, non ha tempo per questo, ha molto altro da fare. Non ha forse il suo cuore da far soffrire, la sua testa da rivoltare, il suo sangue da bere, la sua carne da tormentare, il suo oro da perdere, la sua vita da mettere in discussione, da ricostruire, da disfare, da torcere, da fare a pezzi, da rischiare tutto in una volta, da riconquistare pezzo per pezzo, da mettere in borsa, da gettare sul tavolo in ogni momento. Chiedi al marinaio se può vivere sulla terraferma, all'uccello se può essere felice senza le sue ali, al cuore umano se può fare a meno delle emozioni. Il giocatore d'azzardo non è quindi criminale di per sé, è la sua posizione sociale che lo rende quasi sempre tale, è la sua famiglia che rovina o disonora, ma supponilo come Trenmore isolato nel mondo, senza affetti, senza parenti, abbastanza intimi da essere presi in considerazione. Libero, abbandonato a se stesso, sazio o ingannato in amore, e compatisci il suo errore. Rimpiangi per lui di non essere nato con un temperamento sanguinoso e vanitoso piuttosto che bilioso e concentrato. Da dove viene l'idea che il giocatore sia nella stessa categoria dei bucanieri e dei briganti? Chiedi ai governi perché traggono parte della loro ricchezza da una fonte così vergognosa. Solo loro sono colpevoli di offrire queste orribili tentazioni all'angoscia, queste malefiche risorse alla disperazione. Ma non capisci ancora perché scuso quest'uomo. Sappi che l'ho incontrato un giorno nel bel mezzo dei suoi più brillanti successi e che mi sono allontanata da lui con disprezzo. Lo disprezzerei ancora se non avesse espiato la sua colpa, ma vedremo. Se non lo perdonerai quando saprai tutto. Se l'amore per il gioco d'azzardo non è di per sé vergognoso come la maggior parte delle altre inclinazioni, è il più pericoloso di tutti, il più amaro, il più irresistibile, quello le cui conseguenze sono le più miserabili. È quasi impossibile per il giocatore d'azzardo non cadere in disgrazia dopo pochi anni. Trenmore, dopo aver sopportato a lungo questa vita di angosce e convulsioni con l'eroismo cavalleresco che era alla base del suo carattere, si lasciò infine corrompere, cioè a mano che il suo animo si logorava in questa lotta perpetua, perdeva la forza stoica con cui era stato capace di accettare le battute d'arresto, di sopportare le privazioni di una miseria terribile, di ricominciare pazientemente la costruzione della sua fortuna, a volte con un obolo, di aspettare, di sperare, di camminare con prudenza e e passo dopo passo di sacrificare un mese intero per riparare le perdite di un giorno. Questa è stata la sua vita per molto tempo. Ma alla fine, stanco di soffrire, cominciò a cercare al di fuori della sua volontà, al di fuori della sua virtù, perché bisogna dire che anche il giocatore d'azzardo ha la sua virtù, il modo di recuperare più rapidamente il valore perduto. Prese in prestito e da quel momento in poi si perse lui stesso. All'inizio si soffre crudelmente per il fatto di trovarsi in una situazione così indelicata, poi ci si abitua come a tutto, ci si stordisce, ci si abbassa. Tremor fece come i giocatori d'azzardo e i prodighi, divenne dannoso e pericoloso per i suoi amici. Ha accumulato sulle loro teste i mali che per lungo tempo aveva coraggiosamente assunto da solo, era colpevole, rischiava il suo onore, poi l'esistenza e l'onore dei suoi parenti, come aveva rischiato i suoi beni. La cosa terribile del gioco d'azzardo è che non dà lezioni su cui non si possa tornare indietro, è sempre lì che ti chiama. Questo oro che non si esaurisce mai è sempre davanti ai tuoi occhi, ti segue, ti invita, ti dice spera e a volte mantiene le sue promesse. Ti restituisce l'audacia, ti restituisce il credito, sembra ritardare ulteriormente il disonore, ma il disonore si consuma il giorno in cui l'onore viene volontariamente messo a rischio. Fu in quel periodo che conobbi Trenmore e lo disprezzai. Il mio disprezzo lo ha ferito e ha smesso di chiedere prestito agli amici, ma la sua passione avrebbe dovuto essere curata e forse questo era al di là delle sue forze. Ha fatto ricorso a quei mezzi deplorevoli che sostengono le vite perse da tempo, si consegnò agli usurai e riuscì per qualche settimana a colmare gli enormi deficit che tale speculazione comportava, ma alla fine i debiti aumentarono, la fortuna diminuì. L'idra dalle 100 teste divenne sempre più minacciosa e un giorno Trenmore si ritrovò a non avere un soldo da gettare sul tappeto infernale, non un solo centesimo da esibire come garanzia per i milioni che doveva. Mi disse che quel giorno gli era venuto un pensiero dal cielo, ma il suo angelo cattivo lo aveva soffocato dentro di sé. Pensò a me che non ero sua amica e che non avevo il diritto di rifiutargli l'aiuto, a me che l'avevo ferito nel profondo dell'anima e per il quale in quel momento di disperazione provava più simpatia che per qualsiasi altro suo pericoloso compagno. Ma la vergogna parlò più forte e non venne. Poi, in quel giorno maledetto, gli venne in mente di commettere un'infamia. L'opportunità gli ha teso le braccia, gli ha lanciato le sue sporche carezze, si è abbellita con i suoi orrendi appelli e ha vinto la sua anima fuorviata. Quest'uomo, che non aveva mai voluto giocare contro un amico, che si era scrupolosamente rifiutato di approfittare di un gioco di abilità o di combinazione, quest'uomo che al di fuori di un luogo pubblico non aveva mai ceduto alla tentazione di derubare i suoi cari, questo giocatore d'azzardo in grande, intrepido, ma scrupoloso a modo suo, che aveva accettato dei servizi, ma che per gratitudine non aveva mai voluto mettere il diavolo della sorte tra sé e coloro che glieli avevano resi, quest'uomo, che ora si sentiva troppo orgoglioso per andare a prendere in prestito una somma modesta, decise di commettere una truffa di 100 franchi ai danni di un vecchio milionario fraudolento e libertino che non gli aveva reso alcun buon servizio e che non aveva contato le banconote che aveva gettato alle sue prostitute. In realtà, Stenio, per Trenmore questo era un crimine molto minore di tutti quelli che aveva commesso senza infrangere le leggi scritte. Aveva fatto soffrire le persone oneste con i suoi prestiti illimitati e ora stava rubando un'impercettibile elemosina ai ricchi cattivi. Bene, solo questo lo ha fatto perdere più di ogni altra cosa. Scoperta la frode, Trenmore subì 5 anni di lavori forzati.